prima edizione. Sono le 6:14 minuti e 10 secondi. Una notizia in breve di ieri sera, quello che è successo ieri per l'assegnazione del premio Pulitzer, il più prestigioso riconoscimento del mondo del giornalismo. Che cosa è successo? Che per la prima volta il premio è stato vinto da un reporter di un media online, in particolare David Wood dell'Huffington Post, e poi lo ha vinto il vignettista Matt Worker di Politico.com, un altro sito internet. Commenta tra l'altro il New York Times, che ha ricevuto per il quale due giornalisti hanno ricevuto il premio, che si tratta di un segno del cambiamento nel panorama dei media. Tra l'altro, per la prima volta nessun premio Pulitzer è andato alla narrativa, nessun romanzo è stato premiato. Questa è la notizia. Adesso la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo per una breve rassegna stampa. Prima edizione. Le 6:17 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque, cerchiamo di dare un'occhiata a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, di vedere che cosa troviamo, almeno sui principali naturalmente e sulle prime. Molti dedicano l'apertura ovviamente alla delega fiscale e al decreto fiscale, ve ne abbiamo parlato poco fa nel giornale radio, sono due cose distinte, ma i titoli e le impostazioni sono tutto sommato abbastanza diverse complessivamente, soprattutto se andiamo a guardare il Sole 24 Ore e gli altri quotidiani. Allora, il Sole 24 Ore sceglie un'apertura sull'IMU, così si paga l'IMU a giugno prima rata, e poi il governo vara la delega fiscale, questo nel sommario, salta il fondo per ridurre il peso delle tasse. IMU e catasto stretta sulla casa, il titolo del Corriere della Sera, mentre titoli quasi identici per Stampa, Repubblica e Messaggero. Salta il fondo, taglia tasse. Il Messaggero, l'unico che si differenzia, è salta ancora il fondo taglia tasse. Naturalmente anche ampio spazio alle vicende dell'inchiesta sulla Lega e alle questioni del finanziamento dei partiti, oltre che all'inchiesta della quale tra l'altro abbiamo già ampiamente parlato ieri, della quale torneremo a parlare all'interno dei nostri giornali radio, sul presidente della Lombardia Roberto Formigoni. Per dare un'occhiata un po' più approfondita iniziamo proprio dal Sole 24 Ore, visto che i temi economici sono quelli che dominano la giornata. Il governo, come si diceva, scrive il Sole, vara la delega fiscale, salta il fondo per ridurre il peso delle tasse. I due editoriali di prima pagina sono a firma di Guido Gentili, che parla di coperta corta si riferisce naturalmente alla situazione del governo, e parla, insomma, mette insieme le due cose, il tema dell'agenda economica del governo, il tema delle questioni politiche che sono in campo e dei problemi con i partiti. E un commento di Enrico Di Mita in prima pagina, il titolo è: se l'unico scopo è incassare di più. Da segnalare, poi ne parleremo anche più avanti nel corso di prima edizione e ascolteremo il racconto di questa intervista dalla voce di Mario Platero, che insieme ad Alessandro Merli l'ha realizzata, e parliamo dell'intervista al direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che parla anche di riforma del lavoro. Sul lavoro bene la riforma Monti se elimina il dualismo. A centropagina un titolo dedicato al mondo della finanza, ossia alla vicenda di Fondiari Assai, dal Sole 24 Ore, perché la Consob chiede ulteriori chiarimenti su retribuzioni e voci di bilancio. Ve ne abbiamo parlato spesso anche all'interno di Focus Economia, ma anche all'interno dei giornali radio. Fonsai si diprema fino a Unipol, Bologna al 66,7% del maxi polo. Questo il quadro al Sole 24 Ore, che ci segnala anche sul caro energia, sono state riviste le accise sull'elettricità e c'è una protesta delle aziende, pezzo a firma di Federico Rendina. E poi un dossier le tue nuove tasse, 10 pagine su decreto e delega, questo dal Sole 24 Ore. Come si diceva, IMU e catasto stretta sulla casa, l'apertura del Corriere della Sera. Il commento di prima pagina è dedicato all'economia, è dedicato in realtà alle elezioni americane ed è più Stato o mobilità il duello americano, e a firma di Alberto Alesina, mentre invece quella che tecnicamente possiamo chiamare l'apertura vera e propria, ossia sulla sinistra della pagina, così viene definita tecnicamente, è sul caso Lombardia, il caso Lombardia di missioni e inchieste, Formigoni sui viaggi, mai preso un euro, lasciano altri due assessori regionali. Il commento su tutte queste vicende, e che mette insieme anche la vicenda di Nichi Vendola, della quale abbiamo lungamente parlato anche di questa nei giorni scorsi, e a firma di Antonio Polito, il titolo è Le nuove partecipazioni statali, titolo dedicato anche alla vicenda, alla questione del finanziamento pubblico ai partiti. A centropagina i leader di PDL, PD e UDC che dicono abolire i finanziamenti sarebbe drammatico, un pezzo sulle carte che riguardano l'inchiesta su La Vitola. Da segnalare sul Corriere della Sera, a proposito appunto di questioni che riguardano il finanziamento dei partiti, il pezzo di Sergio Rizzo che si concentra sulle fondazioni. Altro tema, strutture parallele ai partiti destinatarie di cospicui finanziamenti pubblici. La riforma, scrive Rizzo, dice che una fondazione che riceve 50.000 euro da un partito dovrà essere assoggettata agli stessi controlli. A centropagina anche una foto di Breivik, vi abbiamo accennato poco fa al processo. A proposito di politica, c'è l'intervista di Gianfranco Fini alla Repubblica. Il titolo è Fini partiti a rischio se non dimezzano il finanziamento. Questo il quadro per quanto riguarda la Repubblica. Un'intervista a firma di Carmelo Lopapa. A proposito di quello che è stato annunciato ieri dall'esecutivo, c'è una cosa che forse non viene evidenziata così tanto sugli altri quotidiani, almeno in prima pagina, ovvero l'annuncio di ieri sera del Presidente del Consiglio Mario Monti: sarebbero state a carico dei familiari delle vittime le spese del processo di Brescia, e invece no, per la strage di Brescia il governo paga, ha fatto sapere ieri il Presidente del Consiglio. Naturalmente titolo anche sulla bufera su Formigoni per le vacanze pagate, e La Vitola in cella con le sue nuove accuse, voleva 5 milioni da Berlusconi. La Stampa, l'apertura, come si diceva, è sul fatto che salta il fondo taglia tasse, e però in alto ci sono quattro piccoli titoli con quattro foto su quattro inchieste. La Vitola, commessa in tangenti a Panama, poi il tesoro della Lega, lingotti e diamanti per 600.000 euro, l'inchiesta di Milano, i viaggi pagati e Formigoni che si difende, e il processo Ruby, le ragazze di Arcore che dicono soldi da Berlusconi. Questo per quanto riguarda la Stampa, che riporta anche un titolo sulla notizia del Pulitzer che vi abbiamo dato poco fa, e un titolo sull'Argentina, quella nella vicenda della quale vi parlavamo nei giornali radio. Nazionalizza il petrolio, commissariata la YPF legata all'Iberica Repsol, e Madrid che non ci sta. Questo per quanto riguarda la Stampa. È tra i pochi quotidiani che dedica un titolo di prima pagina alla forte, alla vicenda Morosini, c'è Il Messaggero, un pezzo di Paolo Vercesi in prima pagina: Morosini non è stato infarto, forse un difetto genetico del cuore. Mentre troviamo anche qua tutte le vicende delle quali vi abbiamo parlato, con particolare evidenza che viene data qua sul Messaggero alla questione della TV, all'emendamento del governo che annuncia per la quale si fa sapere asta delle frequenze entro 120 giorni. Da segnalare sempre sul Messaggero il commento di prima pagina è a firma del nostro Oscar Giannino, tutto il peso su imprese e famiglie, questo è quello che scrive Giannino per quanto riguarda appunto la delega fiscale. Questo il quadro per quanto riguarda il Messaggero. Vi vogliamo segnalare in chiusura di questa breve rassegna stampa la Gazzetta dello Sport, perché il titolo di apertura è dedicato a Balotelli, che rilascia un'intervista al quotidiano. Italia, amore mio, la nazionale per me viene prima di tutto, voglio vincere col City e all'Europeo, ho rassicurato sia Mancini sia Prandelli, non lascerò più i compagni in 10, scioccato per Morosini, rifarò i test cardiaci in Inghilterra, non sono previsti, ci fa sapere Balotelli. Questo è il quadro dei principali quotidiani italiani. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa, poi ci ritroviamo per le notizie del giornale radio. Prima edizione. Le 6:35 minuti e 38 secondi. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 5:50 ora italiana nord-ovest di Santiago del Cile. Secondo i rilievi del Servizio Geologico degli Stati Uniti, il sisma ha avuto ipocentro a circa 26 km di profondità ed epicentro 116 chilometri dalla capitale cilena. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. È il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è 17 di aprile, d'Italia in diretta, la prima edizione di Italia in controluce. Oggi vi presentiamo un viaggio strano, un viaggio nelle pieghe della mente dell'uomo. Quella di oggi è un'inchiesta sull'esorcismo in Italia e sulle sette nel nostro paese. Il reportage di Barbara D'Amico. Se veramente una persona è posseduta dal demonio, ci vuole l'esorcismo. Padre Gabriele Amort è il più conosciuto tra gli esorcisti della Chiesa Cattolica e, secondo quanto da lui stesso dichiarato, avrebbe eseguito in tutta la sua carriera più di 30.000 esorcismi. Ma lo scetticismo nell'affrontare un tema delicato come quello della possessione demoniaca è tanto. Spesso, più che Satana, ci si trova di fronte a casi psichiatrici, forme di isteria o schizofrenia mal diagnosticati. Alessandro Meluzzi, psichiatra. Facciamo una classificazione così statistica, così in maniera tranchant, ecco, non voglio dare a questa statistica nessuna vera attendibilità scientifica, ma diciamo che per un 50% si tratta di fenomeni isterici, di tipo suggestivo o di tipo istrionico o di tipo simulatorio. Anche la Chiesa si avvale della diagnosi psichiatrica perché appunto non sempre ci si trova di fronte a fenomeni inspiegabili. A Torino nel 2006 l'ex vescovo nomina ben 4 nuovi esorcisti. Uno di loro collabora tuttora con il GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa voluto dalla CEI proprio per arginare fenomeni simili a quelli testimoniati da padre Amort e monitorare la formazione di sette sataniche. L'ente è nato nel 1987 e ha tra le varie funzioni quella di aiutare persone che siano vittime di una setta, o peggio, vittime di una possessione demoniaca, come il caso di un uomo seguito da Marcella Pioli, responsabile del GRIS di Torino. Questa persona è seguita da un esorcista che ha confermato quello che avevo pensato, perché ovviamente uno non può da un racconto, anche seppur molto dettagliato e seguendo la persona di primo acchito, fare una diagnosi di questo genere. Bisogna andare sempre molto cauti, avere la nostra difficoltà grossa è sempre il discernimento, riuscire a capire chi abbiamo davanti e non mettergli un'etichetta già subito e dire a questo qui non c'è niente, di questo qua chissà che cosa c'è. Bisogna seguirlo nel tempo. Come se qualche cosa di misteriosamente alto slatentizzasse dei sintomi ansiosi, depressivi o psicotici che però non hanno una loro spiegabilità completa dal punto di vista nosografico. Ed è quello che faceva dire a qualche demone cacciato in esorcismi veri, veri posseduti, che molto spesso c'è qualcosa di luciferino che si annida nella psichiatria. Era Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate di Italia in controluce e di tutte le trasmissioni di Radio 24, sono scaricabili sul sito www.radio24.it in podcast. Siamo su Facebook, Twitter, il nostro blog, sempre lo trovate su radio24.it. Le 6:40 minuti e 12 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Adesso, prima di parlare del decreto fiscale e poi andare a sentire un racconto di questa intervista che oggi il Sole 24 Ore presenta a Christine Lagarde, quindi ampia pagina dedicata all'economia, e parliamo di economia in realtà anche adesso. Saluto Marco Cobianchi, che è un collega, un giornalista di Panorama. Buongiorno Marco. Buongiorno a te e agli ascoltatori, buongiorno. Che questa sera parte dalle 23 qualche minuto, se non sbaglio, su Rai 2 con una nuova trasmissione che si chiama Numeri. Attenzione, se la cercate su internet non è scritto così, perché al posto della E c'è un 3 e al posto della I di numeri c'è un 1, quindi è scritto in maniera un po' particolare. L'idea è di cercare di raccontare l'economia, alcuni fatti economici, ma non solo quelli naturalmente, attraverso appunto i numeri, non con una modalità da talk show, ma con una modalità di spiegazione però abbastanza interessante. Allora, innanzitutto ti chiedo qualche dettaglio in più in breve, Marco. Ma guarda, hai detto benissimo tu, per la prima volta si cerca di fare una trasmissione di politica, di economia e anche di società senza dibattito in studio, e già questo è un'innovazione abbastanza clamorosa, cioè non ci saranno litigi, polemiche, accusa tra gli ospiti come in un normale talk show. È una trasmissione, diciamo, che è dedicata a chi vuole capire. Chi vuole capire di che cosa parliamo quando parliamo di debito pubblico, ad esempio, di economia sommersa, di evasione fiscale, di tasse, di giustizia, e lo facciamo appunto, come dicevi, in una modalità che non si è mai vista in televisione, io sono, parlo, racconto la storia delle tasse o la storia dell'evasione fiscale o dell'economia italiana dietro a un grafico trasparente, nel quale si muovono gli indicatori, ad esempio, della spesa pubblica in rapporto agli incassi fiscali, o gli incassi fiscali in rapporto alla spesa, al debito pubblico. Allora, così si capisce. Allora Marco, io ti fermo qua, perché naturalmente è puramente una roba da televisione, in radio possiamo raccontarla quanto vogliamo, la sì, possono vedere ragione. Stasera alle 23:25. Io ti chiedo, dacci due sfizi, ecco, sulle cose delle quali parlerai. Allora, intanto la nostra ambizione è quella di sfatare dei luoghi comuni. Ad esempio il consumo delle famiglie. Il consumo delle famiglie, non è vero ad esempio che sia crollato. Nei normali talk show politici alla fine arriva sempre il politico o il sindacalista che dice che i consumi delle famiglie sono crollati. Beh, se si fanno vedere i numeri ufficiali, premessa, noi usiamo solo numeri ufficiali, quindi Istat, Banca d'Italia eccetera, si vede che non è vero. La prima puntata di stasera in particolare è molto interessante, perché per la prima volta facciamo vedere l'andamento del finanziamento pubblico ai partiti dal 74 ad oggi, anno per anno, partito per partito, e si scoprono delle cose molto interessanti. Ad esempio, ne dico una. Nel 74, appena approvata la legge, la DC ha incassato il primo anno 60 milioni. Cioè molto di più di quanto i partiti prendono oggi. Molto interessante, grazie a Marco Cobianchi, in bocca al lupo per numeri. Grazie. Questa sera su Rai 2 alle 23:25. Noi adesso parliamo di riforma fiscale. con la nostra Anna Marino. Qualche dettaglio in breve, Anna, sulla delega fiscale approvata ieri e qualcosa in più anche sul decreto fiscale. Sì, certo, partiamo, Simone, dalla principale novità del decreto fiscale varato in tarda serata dal governo: la nuova tassa sulla casa. L'IMU sarà pagata in tre rate, una prima rata il 16 giugno pari a un terzo dell'importo, la seconda tranche sarà versata entro 16 settembre, portando il totale dell'imposta al 66%, mentre la rata restante, il conguaglio, sarà versato entro il 16 dicembre, quindi scadenze ben precise. Vale il diritto di abitazione, il versamento dell'IMU infatti a carico del coniuge separato divorziato che vive in casa, anche se non è il proprietario dell'abitazione. Ci sono poi dei paletti per evitare abusi sulla prima casa: l'aliquota agevolata e la detrazione si applica per l'immobile dove abita tutto il nucleo familiare e comunque sarà possibile soltanto un'agevolazione a famiglia. Tutto ciò vale solo per prima casa e sulle pertinenze, mentre per la seconda casa restano le due rate, cioè acconto a giugno e saldo a dicembre. Da segnalare che vengono alleggerite le tasse sulle dimore storiche e restano invece fuori da ogni tassazione quelle distrutte dopo il terremoto del 2009. Anna, sì, questo per quanto riguarda appunto il decreto. Per quanto riguarda invece la delega, è saltato il fondo taglia tasse. Sì, certo, il principio è quello della semplificazione, per cui praticamente insieme alla semplificazione, quindi allo stop alle complessità inutili, c'è appunto un nuovo rinvio del fondo taglia tasse, quindi è saltato e si doveva avvantaggiare questo fondo taglia tasse della lotta all'evasione. Resta però l'IRAP, non vengono modificate le aliquote IRPEF e comunque arriva anche la carbon tax. E per quanto riguarda le imprese, da segnalare che arriva l'IRI, che quindi manda in pensione l'IRES, e resta però confermata l'IRAP, quindi diverse novità. Perfetto. Prima edizione. 6:47 minuti e 30 secondi, come si diceva oggi il Sole 24 Ore intervista Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale. Dunque, sentiamo il racconto di Mario Platero. The reforms that he has undertaken, and particularly the labor reform, is also... Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, in un'intervista al Sole 24 Ore che abbiamo pubblicato questa mattina, un'intervista da Washington, ha dato un messaggio molto diretto sulla questione del lavoro, ha chiesto che il governo Monti vada avanti fino in fondo per superare la questione della dualità e dunque fra coloro che sono più garantiti sul posto del lavoro e coloro che lo sono molto di meno, non lo sono per nulla. Ha detto che le aziende debbono sentirsi certe nel momento in cui assumono delle persone anche di poter licenziare e di puntare, un messaggio ai sindacati, di puntare più sull'occupazione che sui salari. Altre notizie della Lagarde: il monitoraggio dell'Italia che era stato deciso a Cannes non c'è più, l'Italia sta meglio, il governo Monti ha fatto buoni progressi sul fronte fiscale, un messaggio per la BCE che punti anche alla crescita. Più tardi su America 24 discuterò dell'intervista con la Lagarde con Alessandro Merli, anche lui a Washington. Mario Pratero, GR24, Il Sole 24 Ore, Washington. Christine Lagarde al Sole 24 Ore nell'intervista pubblicata questa mattina. Questo era dunque il racconto di Mario Platero. Noi ci fermiamo qua. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre, da Simone Spezia. Noi ci risentiamo tra poco con il giornale radio.